Xenia era ansiosa di giungere in albergo e di conoscere che cosa l'attendeva. Dino si alzò, si diresse al banco per cambiare i gettoni, intascò parecchi biglietti di 1.000, poi la prese per il braccio e la spinse al bar. Hai vinto o hai perduto? Xenia gli chiese. Non hai visto? Ho vinto. Mi ero ridotto all'ultimo gettone, ma io lo so, è quando sono proprio giù che mi rifaccio. Tu tieni a saper cogliere il momento buono, sempre così, anche nella vita. Ho vinto 5.000 lire. Poi, tolto un biglietto dalla tasca in presenza di tutti, le disse: Tieni, questo è per te. Per me? Ti spetta perché mi hai portato fortuna. Ma non ho fatto nulla. Insomma, prendilo, ti dico. E la guardò attorno un attimo, poi accettò, fece scivolare il denaro nella borsetta e rise. Aveva una gran voglia di ridere, di essere allegra, di stringersi a Dino. Bevvero e dopo uscirono. Egli camminava con le mani in tasca, fumando, e raccontava di una famosa sera a Monte Carlo, nella quale, se avesse avuto più coraggio, avrebbe vinto somme favolose. È il coraggio che sempre bisogna avere. Quale credi che sia il segreto di Raimondo Horsch? Il coraggio. Ella pensava alla fuga di collegio, all'anello di Manuela. Coraggio aveva avuto. E adesso si trovava a Sanremo a passeggiare con 1.000 lire nella borsetta. In fondo il coraggio è fatto di gesti semplicissimi. La fuga non era stata altro che uscire e non più rientrare in collegio. Ti guarda, Horsch, eh? L'ho capito che gli piaci. Beh, è un uomo simpatico. Sì, e poi lui ha sempre il coltello dalla parte del manico. Sai che tiene la moglie e la figlia a menaggio in una casa modestissima, facendo credere loro che lui a Milano si arrabatta per guadagnare? Un uomo da 20 milioni. Salivano verso l'albergo fiaccamente. Dino neppure le si avvicinava e lei si stringeva nelle spalle perché era fresco. Hai freddo? Subito egli le chiese affettuosamente. Ella disse di no e intanto pensava: Ma che razza d'uomo è? Insomma, è come se fossimo in viaggio di nozze e ancora non mi ha dato un bacio. Forse quel giorno in automobile ha scherzato. Scherza sempre, Dino. Adesso lui andava raccontando di altri paesi che aveva veduto. Già non sembrava più entusiasta di questo, pareva volerle guastare la gioia. La strada saliva, ripida, tra due alti muri, ville ricche con viali di ghiaia illividiti dalla luna, odore polveroso di gerani, odore zuccherato di glicini. Bello essere a Sanremo. Un anno fa ero in collegio, piangevo sulle mani di Silvia. Silvia come? Silvia Custo. Ah, fermiamoci un momento, Dino, il mare. Così, a una svolta, d'improvviso, sotto di loro, si stese il mare. Tutti i lumi erano spenti fuorché la luna. Il paese digradava dolcemente verso la riva. Xenia guardava e pensava, certo, adesso mi bacia. Invece, tirandola per il braccio, lui riprendeva a camminare. Così, giunsero fino alle loro stanze. Egli la salutò sulla porta. Fai le cose con calma, le disse. Io faccio sempre la doccia la sera e ordinerò che portino su una mezza di champagne perché ho fumato troppo. Vieni a berne un sorso anche tu. Entrata nella camera, Xenia rimase pensierosa. Era veramente per prendere un bicchiere di spumante che l'aveva invitata. Una situazione indefinibile. Che faceva Dino? Dove voleva arrivare? I loro amici, parlando di lei, dicevano Xenia, l'amica di Dino. Amica in quel caso aveva un suo preciso significato. Niente affatto amica. Neppure Vandina credeva che la situazione fosse veramente tale. Sarà, diceva, e si capiva che restava della sua opinione, anzi dispiaciuta dalla mancanza di confidenza da parte dell'amica. Certe sere, pensando a Dino, Xenia non poteva dormire e poi concludeva così: Non gli piaccio. Ora di là, Dino stava facendo la doccia. Tra poco vado da lui e divento la sua amante. Sono una ragazza finita. Aveva indossato la camicia da notte, era andata dinanzi allo specchio. Una bella camicia di seta col merletto. Valeva la pena di diventare l'amante di un uomo anche solamente per farsi vedere con quella camicia. È come una camicia da sposa, ma quella è bianca e sarebbe stato di cattivo gusto mettere una camicia bianca. Eppure bianco vuol dire purezza, io sono pura. Ma è pura davvero la donna che va a prendersi un amante? O è impura anche se è intatta? Sì, forse è così. È certamente così. Io già sto sull'altra sponda. Questa è la notte di nozze. E però disdegnava quel suo segreto agire. Avrebbe desiderato essere partita sotto quel sorridente e misterioso compiacimento che avvolge la cerimonia nuziale. Dino l'avrebbe trattata così se fosse stata sua moglie. Non le avrebbe certo offerto il denaro a quel modo. Si mosse, infilò la vestaglia e tornò allo specchio. Un po' troppo lunga quella vestaglia. Beh, bisognava andare ormai, bussare alla porta di lui con naturalezza. Eppure non riusciva a vincere un'emozione che la prendeva come un malessere fisico, un leggero bruciore sulla pelle, un'arsura in gola. Forse non avrebbe trovato la forza di arrivare fino alla porta di Dino. Poteva andarsene se voleva, senza neppure salutarlo, fare in fretta la valigia e via, partire. Aveva le 1.000 lire nella borsetta, ma si era licenziata dalla X&X e non sapeva neppure dove fosse precisamente la società di cementazione alla quale doveva lavorare. 1.000 lire finiscono presto. Avrebbe dovuto tornare alla vita del paese. Alle 12 la colazione, alle 8 la cena, due chiacchiere e a letto. Pettegolezzi, miseria, mamma soffre i reni, papà si lamenta per le tasse. Puzza quella maledetta pipa di papà, solo al ricordo Xenia ne ha le nari piene. Noiosi i genitori vecchi. Se hai legami affettivi che il tempo logora, non subentrasse il senso del dovere, che rapporti ci sarebbero ancora tra la vita nostra e la loro? Chi li sceglierebbe così diversi da noi? Neppure per amici li vorremmo. Libertà. Ah, bella cosa la libertà. Tutto il resto è un'ubbia dei tempi andati. Cercava di convincersi che di quest'epoca la famiglia, il matrimonio ormai non avessero più grande importanza. Tentava di riderne perfino. Forse la verità è che tutti si mascherano di ipocrisia, pochi hanno il coraggio di confessare quello che pensano, di passare sopra le tradizioni. Mi va un amante? Sì, me lo piglio. E invece dentro le nasceva il desiderio di una borghese passeggiata domenicale accanto al marito e il figlio per la mano. Chi sposerebbe una ragazza come lei? Dalla sua amarezza riaffiorava il ricordo di certi discorsi che Vandina faceva con ironia. Mi fanno ridere queste ragazze per bene. Sanno fare le cose quelle lì. Papà e mamma pensano alla vita, mangiare, bere, l'automobile. Non sanno che cosa voglia dire guadagnarsi da vivere. Vanno a ballare, l'estate al mare, l'inverno a sciare. Sole per le montagne con gli uomini, tanto loro sono ragazze per bene. E trovano il marito perché ci sono i soldi di papà. Uno strascico bianco di qua a là, si fanno l'amante dopo, quando a farselo neppure ci vuole un po' di coraggio perché il marito, anche se lo sa, siccome non vuol perdere i soldi, si sta zitto. Puah, Xenia preferisce giocare la sua vita così. Spense la luce, uscì nel corridoio dove una debole luce batteva sulle lucide porte bianche. Al suo bussare Dino rispose: Avanti! E Xenia entrò. Il giovane indossava una vestaglia a fasce azzurre, frusciante come un indumento femminile. Azzurro il pigiama, un fazzoletto azzurro al collo. Xenia pensò che doveva stare scomodissimo combinato così, e tuttavia le parve molto elegante. Egli stava disponendo le spazzole sul comò, i pettini, lo specchio, la lima delle unghie, nello stesso ordine nel quale si trovavano nella valigetta. Siediti, siediti, Xenia. Adesso apro la bottiglia. Un minuto solo, sai? Io sono molto ordinato, maniaco addirittura. Pensavo, aggiunse con tono di rammarico, che potevo arrischiare qualche altro colpettino al casinò. Xenia, senza rispondere, guardava le mani di lui muoversi sul marmo del cassettone. Lo guardava andare e venire tra il bagno e la camera. Poi egli si mise a piegare i calzoni. Ne toglieva di tasca i denari, li metteva sul comodino, in ordine, tutto l'argento in una pila, quindi stendeva i calzoni delicatamente sulla sedia. Non potrei dormire io, diceva, se ogni sera non facessi così. Anche se torno a casa alle 4, devo vedere tutto in ordine attorno a me. La ragazza considerava. Sto in camera di Dino. Vedo che piega i calzoni, che posa la camicia tutta aperta sullo schienale della seggiola, che mette le scarpe fuori della porta e ancora non mi ha dato un bacio. Dino, chiamò. Eccomi, ho fatto. Ci voleva adesso questa mezza qui, no? Ho fumato troppo. E tossì seccamente. Tolse la bottiglia dal ghiaccio, la sturò. Hai l'aria triste stasera. Vieni qui, bevi, ti fa bene. Insieme bevvero. Poi subito la ragazza, esasperata. Dino, fece ancora, e gli gettò le braccia al collo. Allora egli la baciò sulla bocca, le sollevò il viso per il mento e disse con un sorriso: Hai visto? Sapevo che lo spumante ti avrebbe fatto bene. E di nuovo la baciò e intanto con mani leggere le andava togliendo la vestaglia. Proprio candida questa camicia. E la spinse verso il letto. La coricò. Xenia tremava per un improvviso freddo interno. Anche egli si tolse la vestaglia, la sciarpa e si stese accanto a lei. Xenia batteva i denti più forte. Freddo? Dino le chiese. Ella annuì senza guardarlo e intanto l'uomo la tirava a sé per riscaldarla. Lei si calmò. Aprì gli occhi, lo pregò, spegni quella lampada. Come vuoi, egli acconsentì dopo un attimo. E fu buio. Un buio colmo, greve di respiro. Xenia non vedeva più il volto dell'uomo, ma ne sentiva il fiato qua e là attorno a lei, mani che venivano dall'ombra, mani senza padrone, e un gran caldo nelle vene, un caldo che le faceva scottare gli orecchi, le tempie. E adesso, se ne avesse avuto la forza, avrebbe chiesto: Accendi il lume di nuovo, voglio vederti. Era Dino quel corpo accanto al suo, odoroso, di seta nuova. Sue quelle sconosciute mani. E non pareva più la sua, quella voce che poco dopo esclamò: Che magnifici seni hai, bambina mia. Si svegliò presto nel primo mattino, perché dalle persiane aperte l'aurora s'affacciava nella camera. La testa è indolorita, la bocca amara. Gli occhi stanchissimi, come quando rincasava tardi a Milano e aveva poco tempo per dormire. Chissà che ora è. L'albergo era silenzioso. Nel bagno una goccia cadeva ad intervalli. È questa goccia che mi ha svegliata. Poi sobbalzò al ricordo della notte trascorsa e sentì, senza volgersi, l'uomo che dormiva dietro le sue spalle. Dino dormiva sulla schiena, la bocca semiaperta, le nari lucide come se sudasse. Restò attenta a guardarlo, curiosa del suo sonno. Avrebbe voluto chiamarlo, dolcemente, scuoterlo, dirgli: Dino, sono qui. Ma temette invece il suo risveglio e più che per pudore di questa loro intimità, per quel disordine delle lenzuole della camera, la bottiglia aperta, la vestaglia per terra, tutto richiamava le immagini della sera precedente. Fissava il giovane e poi ne distoglieva lo sguardo, quasi temendo che egli, svegliandosi improvvisamente, dovesse rimproverarla di quell'indiscrezione. Cautamente mise le gambe giù dal letto, si levò, andò ad aprire la finestra. Bianco il mare respirava appena, solo qualche onda passava lenta sotto la superficie, come una vena sotto la pelle di una mano. Il paese taceva. Veniva dalla riva qualche voce marina, richiami. Le case avevano le finestre chiuse. La strada era fredda, deserta. Soltanto la fanciulla era desta in quel sonno degli uomini e delle cose, un sonno lieve, prossimo al risveglio. Dormivano pure le foglie delle grandi palme, finché, piano, chissà dove, un pettirosso, dapprima timido e infredolito, cominciò a cantare. E fu l'annuncio del mattino. Poco dopo, una donna aprì le imposte di una casa, sbadigliò, e guardò il cielo facendosi schermo agli occhi assonnati con la mano. Xenia allora si ritrasse. Quel biancore del mare e quella cristallina tersità del mattino le avevano messo freddo sulla pelle. Tornò a coricarsi e il tepore la riposò. Dormirò ancora, pensò. E invece, chiudendo gli occhi, rivide. Chissà perché adesso penso questo, il gesto compassato che aveva Suor Lorenza nel versare il caffè latte nelle tazze al mattino, e sentì di nuovo l'invogliante odore di pane fresco che si diffondeva nel refettorio. Manderò una cartolina a Emanuela, ma no, meglio no, che sanno loro, neppure capiscono che vuol dire essere a Sanremo. Che direbbero sapendo che sono l'amante di Dino? E qui il suo pensiero si arrestò. L'amante di Dino. Anche questo era vissuto, compiuto, più facile della fuga dal collegio, una cosa naturale. Gliene restava una grande stanchezza nelle membra, ma si sentiva monda, senza vergogna, poiché tutto era stato nel buio della notte. Al buio si erano addormentati, non si erano guardati in viso, dopo. 10 giorni insieme, 10 notti così, ma poi all'ufficio non ci ritorno. Oh no, proprio no, Dino non vorrà adesso. Tutto è mutato adesso, come cambia nella vita il valore delle cose a seconda del mondo nel quale si vive. Se ora mi dicessero che la laurea è qui, pronta sul comodino, neanche alzerei la mano per prenderla. Ora ho sonno. Io dormo. Il primo giorno Dino la condusse per le vie di Sanremo, in giro con l'automobile per i paesi vicini. Il secondo cominciò a dire che trovava Sanremo meno divertente degli altri anni e il terzo desiderò di trovare qualche amico. Il quarto, per fortuna, ne trovò. Strani amici che vivevano a Parigi e stavano nelle macchine anche loro. Uno alto che fumava in un bocchino d'ambra era molto influente e da lui dipendevano molte combinazioni, tra virgolette. Viaggiava con loro una donna, una francese, che aveva nome Yvette. Xenia riscosse simpatie. Un tipetto fine, la tua amica, dissero a Dino, ed egli ne fu lusingato. Una studentessa, spiegò, anzi aggiunse, laureata. Xenia lasciava dire, ma più tardi gli chiese, perché non hai detto la verità? Quale verità? Che sono impiegata. Perché dovevo dirlo? Ti vergogni? No, davvero? Sì? Ti vergogni? E anch'io sono stufa di esserlo. Tu non sai con quale sollievo mi lascio crescere le unghie, senza timore di spezzarle sui tasti della macchina. È un mestiere faticoso. A sera una spalla mi duole forte come se avessi un coltello infilato nel muscolo. Egli taceva, masticando la sigaretta spenta. Camminava guardandosi la punta dei piedi. Non gli va il discorso, pensò Xenia. Non gli va. E tuttavia, coraggiosamente, insisté. Non è vero che è un mestiere faticoso? E lui approvò. Già. Capisco. Con gli amici si vedevano di sera. Yvette si alzava tardi, nel pomeriggio addirittura. Detestava la luce solare. In casa sua a Parigi teneva le persiane chiuse e le lampade accese anche al mattino. Non usciva di casa che la sera per andare a sedersi in un bar. Sto male, confidava Xenia. È la morfina. Non posso fare a meno di pungermi. Presto morirò. Da un anno ho un ago dentro di me che passeggia e finirà per infilarmi il cuore. Gli amici l'ascoltavano devotamente. L'ago di Vetter era divenuto la palma del suo martirio. Se ne parlava a bassa voce, con rispetto. Dopo si faceva un attimo di silenzio mentre ella fissava lontano. Uno dei francesi, grassoccio e bianco, la guardava in adorazione, poi le prendeva una mano e gliela baciava. In mezzo a loro, Xenia si sentiva a disagio. Si trovava provinciale, provava per quel gruppo un senso di repulsione e tuttavia le pareva che per quella sua condizione di donna normale, quelli dovessero compatirla un po'. Essi avevano una maniera di parlare beffarda, pungente, che le dava voglia di alzarsi, andarsene, chiamare Dino e dirgli accompagnami all'albergo. Ma lui avrebbe chiesto, sei pazza? E così era obbligata ad ascoltare racconti di Parigi, di abitudini e persone che non conosceva. Dicevano di un giovane molto ricco, molto originale, che al mattino faceva colazione intingendo pane e burro nello champagne. Un'altra, una pittrice che viveva con un musicista, dormivano nello stesso letto, ma fraternamente, perché poi erano innamorati di altri due e facevano così per risparmiare. Un popolo diverso, Xenia osservò, proprio un popolo diverso. Dov'era la brava Francia poetica dei romanzi di Balzac? L'ultima sera Dino vinse 7.000 lire. Sono contento per te, sai, Xenia? Le disse. Ho un disegno. Te lo dico, sì, ora te lo dico. Sei una brava ragazza e mi hai portato fortuna. Anche con quegli amici di Parigi ho combinato un affare. Tutto sta adesso che anche Horsch entri a far parte della combinazione. Di che si tratta? Ah, questa è cosa mia. Le donne in queste faccende. Benché tu sia una ragazza intelligente, lo dicono tutti, hai la mente quadrata e non ti manca il coraggio. Faresti fortuna negli affari. La vita degli affari è pericolosa, come il baccarat, ma alla fine chi ha più coraggio vince. Come sarebbe a dire? Beh, adesso non ti posso spiegare, e non è tanto per me quanto per quelli di Parigi e per Horsch. Se sapesse che ne ho fatto parola con qualcuno, non vorrebbe immischiarsi più. Se l'affare va bene, ti porto in America. Che ne diresti, eh? Di un viaggio in America. Hai visto come faccio le cose io, eh? Da signore, per la miseria. Non te lo sognavi, eh? Io neppure mi sognavo certe cose di te. Poi la fece sedere sui suoi ginocchi e le disse: Tienti forte, non barcollare, arriva la sorpresa. Tu hai ragione, continuò. Io non posso avere per amica un'impiegata. È una questione di prestigio. Eccoti le 7.000. Puoi affittare una casetta, 3 stanze bastano per te. Ci compri le cose più utili intanto e il resto lo prenderemo a rate. Si pagheranno. E se faccio l'affare, andiamo in America. Xenia restò interdetta, il denaro nelle mani. E tu, Dino? E tu? Prendilo, no? Non mi serve. A me basta questa. E si batté la fronte. Questa. Chi ha combinato l'affare delle trattrici e quello degli autotreni? Io, sempre io. Che farebbe Horsch senza di me? Io combino tutto, io parlo, io metto la firma. Ma se questo di Parigi va, dopo non ho più bisogno di lui. Xenia non lo seguiva, ripeteva, meravigliata, per convincersene. Per me? Una casa per me? Certo, per te, Dino diceva sorridendo, e poi aggiunse malizioso: Dio mio, se una sera pioverà e sarò senza tetto, spero che non mi manderai a dormire sotto i portici di Piazza del Duomo, eh? A Milano, Vandina, sentendo l'amica raccontare queste cose, restò sconcertata, ma presto si riebbe e disse: che vuoi fare? Questa è fortuna. Del resto io non avrei mai potuto far questo per via del mio amichetto. E poi tu hai l'istruzione, l'ho capito subito io. Xenia le regalò una borsetta e andarono insieme a cercare la casa. Tutte erano troppo care, ma finalmente ne trovò una che andava bene. Dino le fece fare tutto come voleva. Ella una sera gli chiese incerta: Potrei mettere il mio nome sulla porta? E l'altro non la finiva più di ridere. Certo, che nome ci vorresti mettere? È tua la casa. E questa frase Xenia se la ripeteva spesso tra sé. La casa è mia. Firmato il contratto di affitto, chiamò gli operai. Quando Dino vide l'appartamentino e lei gli chiese preoccupata: Ti piace? Egli approvò. Dio mio, non è una reggia, ma tu hai fatto le cose con giudizio e con gusto. Già sulla porta brillava la targhetta di Ottone, col nome per esteso Xenia Costantini. Erano a cena insieme una sera e Dino le disse: È andato, sai, il grosso affare con quei francesi. Horsch ha detto di sì, si comincia. Di che si tratta? E stavolta è una cosa diversa. Non si tratta di automobili? Sì e no, sì, anche automobili, ma è una cosa complessa di esportazione. Horsch ha mollato oggi, ma il lavoro a me. Se ne lava le mani lui del rischio. Oggi quasi abbiamo avuto a che dire per causa tua. Mia? Tua, sì? S'era venuto a parlare di Sanremo e tu capisci, no, bambina mia, discorsi di uomini. Dicevo dunque che m'ero proprio affezionato a te, anche per la pelle. Anzi, si viene ai particolari e lui mi fa l'incredulo. E io insistevo, non sono mica un imbecille, vergine, vergine l'ho avuta. Che pretendeva che fosse una mia vanteria. Perché, dico, se neppure lo sapevo. Insomma, ci è rimasto male e continuava a scuotere la testa. L'ho lasciato perché sennò finiva male e non posso inimicarmelo. Taceva Xenia, mangiava le ciliegie dure, ghiacciate, che quasi quasi facevano male ai denti. Che cretino era stato Dino a dire così. Perché era andato a raccontare questa storia? Come rispondendo al pensiero di lei, egli disse: Sai, ci tenevo. Ella, fingendosi distratta, propose: Usciamo di qui, fa caldo. E chiese appena fuori: Voglio guidare io. Dino glielo aveva insegnato e a lei piaceva condurre la macchina, sentire che ubbidiva alla sua volontà. Era cosa che s'addiceva al suo carattere. Era irritata per l'ironica incredulità di Horsch, per il carattere chiuso di lui, quel mezzo tedesco, e le pareva che Dino, con quel discorso, l'avesse ammesso nell'intimità di lei, come se gli avesse permesso di entrare in una stanza dove ella si trovasse, spogliata. Forse, pensava, Horsch mi ha calcolata finora come una di queste, come Vandina o la Mari, e ha ragione, in fondo. Ci vivo in mezzo, ma farò vedere a lui, a tutti. Irata spingeva la macchina a forte andatura. Erano alla periferia. Smilzi e Alberelli passavano velocemente. Dove vai? Dino le chiese timido. Capiva di aver detto qualcosa che l'aveva messa in quello stato, ma non sapeva quale. Dove vuoi che vada? Gli rispose stizzita. Si deve sempre avere una meta? Vado così, perché mi va di prendere aria. Una domenica di mezzo luglio la superiora partì. Una giornata assolata, caldissima. C'era stata al collegio una colazione solenne, ma una festa di congedo non riesce mai allegra. Le cariche si abbandonano per imperizia o per vecchiaia o perché qualcuno più abile si fa lasciare il posto per prenderselo lui. Questa cerimonia di oggi sembrava essere un acconto sul funerale della badessa, alla quale ormai, che diveniva innocua, si potevano riconoscere tutte le virtù. Forse il suo funerale sarebbe stato meno triste. Era vecchia, avrebbero detto tutte, e basta. La superiora si sentiva già un ospite. Aveva smesso quell'aria di rancore che le stava negli occhi vitrei. Benevolmente baciò sulla fronte la più giovane delle ragazze che le offrì un mazzo di fiori e sorrise bonaria come un malato che abbia preso il viatico. Sembrava meno vecchia ora che la vecchiaia non doveva scusare la sua inoperosità. Il dolce, una torta gigantesca come un monumento sepolcrale, lasciò in ognuna una stucchevole sazietà. Si sparse nel refettorio una stanchezza assonnata. L'afa gravava attorno ai finestroni, i fiori nel giardino boccheggiavano. Anche la superiore era stanca e rispondeva appena, mezzo addormentata. Svelta e fresca, niente affatto appesantita dal cibo, e da allora suor Lorenza preparava la partenza della vecchia. La sua nomina non era ancora ufficiale, ma tutti lo sapevano già. La nuova superiora era lei. Ragazze e monache uscirono sulla porta per salutare la badessa. S'affollarono, curiose, non volendo perdere un gesto o una parola di quella che fino allora avevano considerato un vecchio oggetto. Davanti alla porta, sulla piazza fulminata dal sole, una carrozza attendeva. Il cavallo batteva sordamente uno zoccolo sulle selci. Nel rispettoso tacere delle ragazze, la superiora salì e si sedette. Si sparse attorno a lei la gonna viola. Accanto, nel poco spazio rimasto, si installò una suoretta sedendosi appena. Un minuto di silenzio impacciato, poi alla grassa mano che s'agitava nel saluto, tante mani giovani risposero innumerevoli sorrisi. Nella piazza deserta, la carrozza mise alto il rotolio delle ruote. Le ragazze restarono a guardarla allontanarsi, mezzo sorridenti, mezzo commosse, finché suor Lorenza, rientrando, ordinò di rientrare. Da quel momento ella fu la superiora. Suor Lorenza aveva già preso possesso della camera della superiora. Non vi dormiva ancora, attendeva la lettera ufficiale, ma già considerava suo quanto era intorno. Lo studio le apparteneva da tempo, i registri erano riempiti della sua scrittura, solo qua e là qualche firma incerta della madre. Avrebbe durato fatica ad abituarsi alla camera, tutto era ancora pregno del soggiorno della vecchia. La poltrona ne serbava l'impronta, nei cassetti restava un odore di cose di persona anziana. Suor Lorenza era abituata ad entrare in quella camera in punta di piedi, quando la madre era in letto, malata. Le parlava senza mostrarsi, da dietro i tendaggi bianchi, e anche se non la si vedeva, la camera era piena di lei, come adesso. Spostò le tende per essere certa che non ci fosse più. A quest'ora è in treno. Tuttavia non si sentiva ancora pienamente la padrona. Questo interregno glielo facevano notare le suore sue compagne, le quali, benché ormai sapessero che la carica sarebbe spettata a lei, ostentavano di ignorarlo, per trattarla ancora da pari, per lesinarle qualche centimetro di inchino. Suor Lorenza temeva che le altre prendessero le redini di tutto e la respingessero e l'isolassero. Un'altra avrebbe tenuto i registri, la corrispondenza, ella sarebbe stata costretta a passare le giornate sulla poltrona rossa, dormicchiando, fingendo di recitare il rosario. No, impossibile, impossibile. Ma non era stata lei stessa a creare questo alone di timoroso rispetto attorno alla figura della madre superiora? A poco le aveva tolto di mano tutta la casa, dolcemente, ipocritamente. Non aveva mai permesso che certi discorsi arrivassero fino a lei. Lei aveva abituato le compagne a questa finzione verso la superiora. Tutte avevano timore della madre. Era in suo nome che sempre aveva trasmesso gli ordini più severi. Quando volle allontanare una ragazza francese che aveva in antipatia, le disse proprio così: «È per ordine della madre che ti parlo, figlia mia». E la vecchia non ne sapeva nulla. Credeva che la francese abbandonasse il collegio per ragioni di salute. Anche quando la Costantini era venuta a chiederle uno sconto sulla pensione, la madre ha rifiutato. La madre, sempre la madre. Forse adesso le ragazze al suono di questo nome provavano un'istintiva ostilità. E adesso la madre era lei. S'affacciò alla finestra sul cortile. Le altre suore sedevano a tondo, chiacchierando. Era l'ora della ricreazione. Suor Luisa leggeva una storia sacra in un libretto e non l'avevano chiamata. Chi ormai avrebbe osato disturbarla? Suor Luisa smise di leggere e si rivolse alle altre. Certo parlano di me. È quella Suor Luisa, una veneta intrigante, chiacchiera sempre con le ragazze. Insegnerà loro a isolarmi. Adesso che partono per le vacanze, forse scriverà loro. Tutte partono, anche Manuela. I suoi genitori sono tornati. Chissà se rientrerà a ottobre. Alcune non tornano più. La Fanti si è laureata in medicina. La Ortiz è andata a vivere con quegli spagnoli. Augusta rimane. E la piccola Bongiovanni che ripete l'esame. Augusta sa tutto delle ragazze. Lei certo potrà dirmi che cosa si dice di me. Andrò a parlarle più tardi. Così, come per caso. Lesta scese le scale e apparve nel cortiletto. Le monache erano tutte lì sedute. Tre delle più giovani facevano un ingenuo girotondo canticchiando. Vedendola, tacquero e talune s'alzarono in piedi con punte. Ella atteggiò il viso a sorpresa. Perché vi alzate, sorelle? Non seppero dare spiegazioni. Rimasero zitte a guardarla. Di che parlavate? Domandò accostandosi. Sediamoci di nuovo. Le avevano lasciata libera una sedia, ma ella fece finta di non avvedersene e prese il suo posto abituale sulla panca tra Suor Luisa e Suor Prudenzina. Poiché le altre tacevano, incrociò le mani sul grembo ed attese, ma non ripresero a parlare. Dopo un minuto di silenzio, Suor Luisa riaprì il libretto, incerta, e ricominciò a leggere. Questa fu dunque la prima apparizione della Vergine alla pastora Bernadette.